America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Non so quanti lo ricorderanno, ma questo era l'attacco di una puntata che avevo dedicato a Detroit, che feci l'anno scorso, per dare notizia del fatto che Detroit, dopo aver passato un momento difficilissimo, dopo essere fallita finanziariamente come città, si stava rimettendo in piedi. Ebbene, in questo mese di agosto abbiamo avuto conferma che Detroit si è stabilizzata e chissà, forse riuscirà anche a farcela. Sentiamo il sindaco Mike Duggan, che avevo intervistato in quella puntata, e allora lui mi diceva: per ora stiamo cercando di riportare la gente al lavoro, stiamo studiando un piano di riorganizzazione per la città, tutti stanno lavorando molto duramente. Sentiamo adesso. In 350 cases they signed a consent agreement, they're fixing up the house themselves without us having to do anything. 350 houses being fixed up. In another 250 cases the court awarded the property to us in the land bank, and in these 1,200 cases, we have not lost a single one. We are making progress. Ecco, avete sentito Duggan che racconta come centinaia di case di Detroit sono state rimesse in piedi e come la città stia facendo un grande progresso. Vi avevo raccontato allora varie storie, avevo raccontato del giudice Damon Keith, un giudice leggendario, il primo giudice federale nominato dall'amministrazione Lyndon Johnson, figuratevi, ha oltre 90 anni ed ero riuscito a intervistarlo. Avevo parlato con Alfred Taubman, un personaggio geniale, era stato anche il proprietario di Sotheby's, e disse una cosa straordinaria in quella intervista. Dice: questa città è la mia casa e credo nel suo futuro, il Michigan è unico, siede sull'acqua, ha a disposizione più riserve d'acqua dolce di qualunque altro paese al mondo. In quest'area del Michigan abbiamo il 24% dell'acqua dolce mondiale, e siccome verrà un giorno in cui l'acqua sarà più importante del petrolio, beh, chiaramente qua ci sarà un grande futuro. Parole sagge, perché abbiamo visto quanto il problema dell'acqua è esploso, per esempio, in California. Ebbene, stavo ripensando alle parole di Taubman, stavo ripensando a questa fabbrica di orologi, la prima fabbrica di orologi che riaprì in America, proprio a Detroit, che si chiama Shinola, quando mi è capitato sotto gli occhi un articolo scritto da una columnist di Detroit, del Detroit News, che si chiama Laura Berman, e ha attirato la mia attenzione perché raccontava di qualcuno straniero che aveva scritto un libro su Detroit, facendone una cronaca piena di charme. E poi ho scoperto che il libro l'ha scritto una ragazza italiana, una giornalista italiana che si chiama Francesca Berardi, che è cresciuta a Torino. Allora, Torino, Detroit, Chrysler, Fiat, insomma, c'erano molti elementi che quadravano il cerchio. E beh, qui devo dirvi che ho un po' ceduto alla debolezza, perché in realtà Francesca Berardi la conosciamo bene qui ad America 24, perché ha lavorato con noi in redazione, e dunque non potevo che essere orgoglioso di vedere che aveva sfondato addirittura su un giornale americano con un libro che si chiama Detour in Detroit. E Francesca Berardi è qui con me ai microfoni di America 24. Francesca Berardi, come dire, ha cominciato a muovere i suoi passi qui con noi a New York. Adesso Francesca, buongiorno Francesca. Ciao Mario, buongiorno. Allora, intanto, che impressione ti fa di essere da questa parte dei microfoni? Una bellissima impressione, mi fa un po' sorridere, anche perché altre volte ti ho aiutato anche proprio con la radio, quindi... E allora, tu adesso stai andando anche, altra tappa importante, alla Columbia Journalism School, sì, che è un po' il tempio dei giornalisti. Sì, un master questo di un devo anno. Dire, mi dispiace. Piace un po', perché è come se tu dicessi che devi ancora imparare qualcosa, mentre qui ormai hai imparato tutto, hai già scritto un libro, sì, no, o no? Ma sai Mario, come si dice, non si smette mai di imparare. Ecco, parole sagge. Ma senti, parliamo di questo libro, cosa vuol dire Detour in Detroit? Beh, Detour perché è stata proprio una deviazione in qualche modo, sia nella mia esperienza americana, una deviazione da New York, e sia perché è stato proprio appunto una strada che ho intrapreso e che è stata inaspettata, perché mai più avrei pensato di scrivere un libro su Detroit. Sono stata a Detroit la prima volta nel febbraio del 2013, E ancora mi ricordo quando venni da te e ti dissi: Mario, vado via per il weekend, non ci sarò venerdì, vado a Detroit. Cosa ci vai a fare a Detroit? Ecco, però avevo un sospetto. Cosa vai a fare a Detroit? Ma tu sei una torinese, sei cresciuta nel contesto Fiat, cioè la Fiat dominava Torino, e arrivi a Detroit. C'era anche un po' un'attrazione per scoprire l'altra capitale dell'auto? Beh, assolutamente. La ragione per cui sono andata là è questa. Mio papà ha lavorato alla Fiat per 30 anni, io sono cresciuta a Torino e volevo vedere la faccia della Motor City americana. Ecco, la Motor City americana, che poi anche Motown, no? La grande città che ha dato una grande musica non solo agli Stati Uniti ma al mondo intero, una città di grande storia, una città che ha portato l'auto, l'industria, il futuro al paese, agli Stati Uniti e, diciamolo pure, al mondo. E in questa tua deviazione verso Detroit, che cosa hai trovato? Perché la città era un po' giù, soprattutto nel 2013, eravamo nel pieno della crisi, case abbandonate. Ecco, ora, rivedendola ora attraverso gli occhi di questo tuo libro, quali sono gli elementi chiave che ti colpiscono di Detroit, di questa capitale del Michigan? Beh, ho trovato una città che ha uno straordinario potenziale, il potenziale di diventare un modello di città per il futuro, e ho deciso di raccontarlo attraverso le storie dei suoi abitanti, proprio perché ho trovato delle persone incredibili. Mi è venuto in mente, mentre con il tuo stacchetto di apertura di oggi, il proprietario del ristorante più antico di Detroit, che è proprio un italiano, anzi un italo-americano, Hector Soss, che mi ha raccontato di quando Vittorio Valletta, presidente storico Fiat, andava a mangiare da loro. Ho incontrato il fondatore della musica techno, ho incontrato un attivista, Grace Lee Box, un attivista di origini cinesi che però è diventata qua in America una delle più importanti attiviste per i diritti degli afroamericani e che ha compiuto 100 anni proprio lo scorso mese. Sono stata a Detroit 2 settimane fa e leggevo il capitolo dedicato a lei vicino al suo letto. Ho incontrato degli imprenditori, degli artisti, quindi ho avuto modo veramente di indagare diversi aspetti della città attraverso questi incontri, che non sono mai state delle interviste di un'ora, sono sempre state degli incontri che mi hanno permesso di entrare nella vita di questi personaggi. E dunque adesso tu fai Colombia, ma poi torneresti a Detroit? Beh sì. Devo dire che nel momento in cui ho ricevuto la risposta di Colombia ho pensato: l'unica punta negativa è che devo rimandare un più lungo soggiorno a Detroit. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee. La questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo aperto con una canzone italiana dedicata a Detroit. Francesca, tu sei ancora qui con noi. Ormai tu sei l'esperta, hai scritto un libro in inglese, diciamolo, in inglese su Detroit. Cosa scegli? Beh, sceglierei la canzone di un altro straordinario personaggio di Detroit, Sixto Rodriguez, I Wonder, quella che mi piace di più. I Wonder, Sixto Rodriguez, una storia bellissima perché è una storia di redenzione. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder do you know who'll be next. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!